Che dice? Guardi, guardi, io le dico solo questo. Indubbiamente il prezzo è un prezzo conveniente. C'è poi un conguaglio che si paga ogni anno, ma quelle sono fesserie, non è questo il problema. Il dato oggettivo è che di fronte a una necessità uno cerca quello che c'è sul mercato, e come me lo hanno cercato anche tanti altri. Non è che diciamo che in questo palazzo ci abito solo io, ci sono tanti altri, anche nella mia commissione, tra i miei colleghi ci sono tanti altri che hanno questo tipo di diciamo di disponibilità. Perché io l'ho chiesto all'Enasar, come l'avevo chiesto alla Cassa dei Commercialisti, l'avevo chiesto alla Cassa dei Notai, se c'erano delle disponibilità di appartamenti per poter trovare una... Calcoli che quando l'appartamento mi fu dato era in condizioni disastrate, le spese che l'ente, l'Enasar, mi ha rimborsato, perché da una loro valutazione quelle erano, sono quelle che diciamo loro ritenevano utili per una ristrutturazione, io ne ho spesi 4 volte in più, perché loro non mi hanno riconosciuto per esempio la sostituzione delle finestre, delle porte, perché erano cose certe, io le ho fatte, perché se uno ci deve vivere poi ci deve vivere in condizioni normali, quindi ho speso molto di più. Ma questo chiaramente non mi ha posto in una condizione di dire qualche cosa della sarta, anche perché ripeto, avevo un fitto che, ripeto, non è un privilegio per me, è una condizione ed è un sistema che loro attuano come criterio per tutte le locazioni, quindi non allora, è che ho avuto un privilegio personale.